24 Storie di star. Questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. La chitarra a volte serve più di una spada, anche se c'è chi non la pensa così. La musica è un fatto molto forte, capite? La musica può cambiare delle cose. La musica degli anni 70 a Napoli aveva qualcosa di rivoluzionario, ce l'ha ancora, nella misura in cui era una realtà che coesisteva con mostruosità come il Festival di Sanremo, la musica leggera confezionata su misura per l'imbecille collettivo. Un movimento che partiva da Napoli che non aveva eguali in Italia, questa città così densa di fatti che erano assolutamente autonomi, però andavano nella stessa direzione. Pino Daniele, Eugenio Edoardo Bennato, Tony Esposito e tanti altri. Negli anni 70 Napoli diventa la West Coast europea. Un gruppo di solisti si alterna sui palchi della città fino a diventare un vero e proprio movimento musicale. Sono i Negri del Vesuvio, come vengono soprannominati, cantanti che l'industria discografica italiana ha emarginato, che invece riusciranno a travolgere tutti gli schemi con nuove sonorità. Negli anni della contestazione, del femminismo, della rivolta giovanile, Napoli a sorpresa si fa portavoce musicale di una scomoda coscienza critica della società. Ed è tutto a suono di rock e pop e jazz. E allora ripercorriamo questa storia insieme a critici, musicisti, scrittori come Gino Castaldo, Henry De Luca e Renato Marengo. A Napoli accade qualcosa di stranissimo negli anni 70, più o meno intorno alla metà degli anni 70. E cos'era parte imponderabile? Certo, ci sono delle cose che si possono spiegare, i cambiamenti. Una città che cominciava, che aveva dietro una cultura musicale portentosa, una delle più solide, più forti di tutto il panorama nazionale, ma che forse aveva bisogno di un rinnovamento. Sta di fatto che proprio nel giro di 2 o 3 anni vengono fuori, non come si dice sempre, Pino Daniele, certo, ma in realtà erano tantissimi. Perché il rock italiano stentava, gli artisti italiani non si avvicinavano al rock? Perché la lingua italiana non è rock, a meno che a cantarla non sia un Edoardo Bennato, che se deve dire meno male che adesso non c'è Nerone, meno male che adesso non c'è Nerone. Meno male che adesso non c'è Nerone. L'italiano non si presta al rock, la parola italiana che per sua natura piana, insomma, per sua natura più morbida, più lenta. Il napoletano è più aggressivo, è più veloce e quindi è adatto. Noi che cerchiamo il paradiso in terra vacante. Napoli è una città in fermento. A descriverci il panorama musicale della città negli anni 70 sono il critico musicale Carmine Aimone, il produttore discografico Stefano Senardi, musicisti come Rino Zurzolo, Pat Metini e Daniele Sanzone degli A67. E poi ancora i critici musicali Dario Salvatori e Gino Castaldo. La storia è cominciata, la storia non fornisce più. Ma sì, ma tutta è uguale, sotto in coppa nord e sud. Napoli, con tutta la regione e tutta la costa, negli anni 70 poteva essere considerata una sorta di piccola West Coast europea. Quando stavamo a Bologna, che abbiamo incontrato Zucchero, che ancora non aveva avuto successo, dice, ma a Napoli avete tutti quei musicisti, quella scuola così forte, cioè era diventata... Tutto quello che veniva, si pensavano, no, tutto quello che usciva da Napoli era una cosa potente. Non mi dare sempre ragione, io lo so che sono un errore. Sono stati dei momenti straordinari, dagli Osanna a Napoli Centrale, precursori di qualcosa di straordinario anche rispetto a quello che succedeva all'estero. Ad ogni brano ci chiedevamo come sarà a suonarlo quando finalmente saremo a Napoli. Quello che ha dato rispetto al fenomeno della musica italiana è sicuramente un suono molto forte, identificativo di una determinata zona, che è quella appunto partenopea. E poi ha dato sicuramente anche l'impegno politico. Erano la centralità della musica pop. Noi siamo figli delle stelle. Improvvisamente, non uno, ma più artisti arrivano a incarnare un passaggio epocale, cioè un rinnovamento profondo in quella che era stata la più importante, forse, tradizione della canzone italiana. Luglio 1973, Collina dei Camaldoli. Sulla scia di Woodstock nasce a Napoli il primo raduno rock. Gruppi e cantanti solisti si alternano sul palco. Dopo 3 giorni di ininterrotte esibizioni, quei musicisti si accorgono di essere un vero e proprio movimento musicale. A raccontare quell'importante svolta è il critico musicale Dario Salvatori. Fu un momento, secondo me, molto significativo, intanto perché fu il primo festival pop organizzato a Napoli, una città già problematica in quel periodo, e poi perché già il titolo scelto, e lo vollero gli Osanna, che naturalmente furono i protagonisti di questo festival, fu particolarmente azzeccato, il being, cioè l'idea dell'esserci. E fu di larghissima partecipazione e di grande pregnanza contenutistica. A un mese da quel concerto, nell'agosto del 73, a Napoli scoppia il colera. La città si mostra nella sua totale debolezza, una metropoli ai margini dello sviluppo, ma allo stesso tempo una città che ha urgenza di essere raccontata. A parlarne Jenny Sorrenti, Claudio Poggi e Renato Marengo. Volevamo fare una musica diversa, una musica appunto che andasse contro quello che era in voga allora. E cioè, che cosa c'era allora? C'era la canzone napoletana di Aurelio Fierro, c'era il Festival di Napoli, c'era il folk, diciamo, quello più basso, e c'era in Italia, poi c'era Sanremo, Disco per l'Estate, eccetera. C'era uno scontro generazionale fra quelli che, diciamo, vivevano una Napoli più popolare e fra quelli che, pur essendo popolari, volevano evolversi. Noi a Napoli ci consideravamo un po' i negri del Vesuvio, quindi Naples Power era un po', come dire, un po' simile a Black Power. Ecco, allora ci piaceva dire Naples Power in quanto Black Power, negri del Vesuvio, non neri, negri in quanto emarginati, ed eravamo emarginati sia dal resto d'Italia, stiamo parlando degli anni 60, quasi 70, soprattutto discograficamente parlando, perché la grande discografia era a Milano, a Roma. Ma di discografia a Napoli c'era e purtroppo non si occupava minimamente di nuova musica, anzi. A Napoli si fa sempre più strada il bisogno di nuove esperienze musicali e si cerca un nuovo linguaggio. Gli artisti non si riconoscono più nella Napoli della cartolina, dell'amore e dei buoni sentimenti. È il momento della denuncia. Non si esorcizzano i mali della città, ma si mettono in evidenza. E il disagio diventa il centro del racconto. A parlarci di quella Napoli sono il semiologo Francesco Linguiti ed i musicisti Enzo Gragnanello, Marcello Colasurdo e James Senese. Ma che bella città! Napoli negli anni 70 aveva più casi di tifo del Vietnam. Napoli negli anni 70 è una città dove la situazione, forse se lo sono dimenticati tutti, la situazione igienico-sanitaria era da terzo mondo. Non era da terzo mondo, Napoli era il terzo mondo. Facemmo un gruppo che si chiamava proprio Banchi Nuovi, e quel gruppo esprimeva artisticamente il disagio, i problemi che c'erano, la disoccupazione, la mancanza di case. Abbiamo denunciato a suo tempo anche la camorra, che a suo dire, a suo fare, purtroppo prendeva, infatti nella canzone noi lo diciamo, all'epoca prendeva 700.000 lire per entrare in fabbrica. Tira a campare, tanto niente cambierà, si dice. Tu vedevi che tuo figlio non lavorava, oppure che la signora di fronte non poteva mangiare, tutti i resti a pezzi. Cioè, questa è stata una concatenazione automatica, capite? Nel senso che i linguaggi che noi abbiamo scelto di parlare del contadino, del povero, capite? Della nostra città, no? In poche parole, capite? Per quello che non si poteva fare, no? Com'è triste, come amare. C'era una frase che si diceva in Inghilterra negli anni 60. Quando la moda della musica cambia, le mura della città tremano. Era Raffaele Cascone, giornalista e conduttore radiofonico. Anche a Napoli arriva il vento della contestazione. C'erano le contestazioni, c'erano le manifestazioni, era il periodo caldo quello. Napoli diventa contemporanea dell'Italia in quel decennio 70. La Napoli degli anni 70 è uno dei laboratori sociali e politici più straordinari dell'Europa di quegli anni. I disoccupati organizzati, una contraddizione in termini. Il disoccupato è uno che si deve arrangiare da solo. Lì smettono di arrangiarsi da solo e decidono che possono insieme essere forza d'urto per scippare. Di questo si tratta, scippare posti di lavoro. La cosa bella, mi piaceva la parola, disoccupati organizzati, perché non avevamo proprio idea che cos'era l'organizzazione, stare insieme. C'era tutta la politica di chi voleva rendere, per esempio, ci teneva, spingeva la grande industria a venire a Napoli perché pensava che Napoli sarebbe cambiata finalmente con la creazione di una classe operaia forte, che avrebbe portato cultura del lavoro, dell'onestà, e anche della rivendicazione della lotta di classe, del cambiamento sociale tramite l'industrializzazione. Cominciava a esserci una nuova Napoli che doveva fare i conti con la vecchia Napoli e adattarsi in qualche modo. Ecco, in questa stridente trasformazione entra questa nuova musica. Insieme a tutto questo fermento sociale, a Napoli c'era un grandissimo fermento musicale che interpretava quello che accadeva nelle strade di Napoli. C'era l'euforia della consapevolezza di rappresentare non solamente un aspetto musicale della città, ma qualcosa di molto più importante. Poi la strada la trovi da te. La città di Napoli dunque ricomincia dalla musica, dai ritmi di matrice preromana fino alle armonie del bebop. Un patrimonio unico al mondo si risveglia e si rimette in gioco. Ricominciamo da qui, dopo la viabilità. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Il colesterolo in eccesso può causare problemi al cuore. Danacol, grazie agli steroli vegetali, lo riduce fino al 10% in 3 settimane. Mix 24. Storie di star. Bentornati a Mix 24, al racconto della Napoli musicale degli anni 70. Ma qual era il clima culturale che si respirava nella città in quegli anni? Ascoltiamo Eugenio Bennato, Roberto De Simone, Stefano Senardi e Raffaele Cascone. Il clima di quei primi anni 70 era un clima molto, stimolante. C'erano i film di Pierpaolo Pasolini, c'era la necessità di fare un percorso che nel nostro essere napoletani ci rendesse però contemporanei, moderni. Il ritmo ossessivo di una tamuriata. E quella bisognava andarsela a cercare perché non esisteva, non, o meglio era lontana, era nascosta, era dimenticata, era ghettizzata. Facevo ricerca semplicemente richiedendo ai vecchi, agli anziani, i vecchi canti, gli antichi canti che connotavano le manifestazioni collettive del mondo contadino. Le prime cantate, quelle Yesce o Sole, erano i canti delle lavandaie del Vomero del 1200. A un certo punto negli anni 70 l'Italia, senza rendersene conto, è stata la leader e l'inventrice della world music. Well, I'm ready. I'm willing. Nel 1952, quando a Napoli viene costruita la prima base NATO, Napoli comincia ad essere un ruolo cruciale per appunto uno sviluppo di una nuova tendenza musicale. Noi ricevevamo la sera, 1952-53, American Forces Network Bremerhaven, American Forces Network Munich, The Voice of America Broadcasting in Special English. E quindi arrivava il jazz, il bop, il rock and roll, il rhythm and blues. Positano gioca un altro ruolo importante in questa contaminazione. Era pieno di personalità di cultura e grandi artisti della musica. Potevi incontrare un Sean Phillips che diceva: vieni a casa, ti faccio vedere come si canta usando la meditazione. Nessuno dava credito a questo tipo di Napoli, davano credito a quella Napoli che tutti conoscevano. Era più difficile per gli artisti di Napoli farsi conoscere collegarsi al appunto a quello che era il mercato, insomma, ai protagonisti principali, erano le case discografiche. Io parlavo loro di cose che esistevano, come Nuova Compagnia di Canto Popolare, come Tony Esposito, come lo stesso Pino Daniele, guardavano con diffidenza. E succede quasi per caso, noi eravamo molto seri, molto severi, molto impegnati, incorruttibili, quasi per tenerci buoni, perché non lo proponete un disco? Allora io mi sono trovato a diventare produttore per caso, perché non lo facevano altri. Erano Gianni Sorrenti, Claudio Poggi, Gino Castaldo e Renato Marengo. E in questa Napoli sta provando ad emergere un cantautore che viene dai Campi Flegrei, da Bagnoli. Il suo nome è Edoardo Bennato. A raccontarci i suoi esordi sono lo stesso cantautore e poi Renato Marengo, Gino Castaldo ed il giornalista Rino Cascone, che ha giocato un ruolo importante nella scoperta di numerosi artisti napoletani. Il capo della Ricordi mi disse: vedi Bennato, quelli della Rai hanno detto che la tua voce è sgradevole, è sgraziata, per cui lascia perdere. Allora faccio il famoso agguato alla napoletana, che nel libro Song di Napoli io e Michel Pergolani descriviamo e raccontiamo. Anche nella musica americana, se andiamo a scoprire, o quella inglese, c'è sempre qualche, sono sempre personaggi chiave, no? Sono quelli che hanno portato, hanno detto, hanno fatto, hanno prodotto. In quel caso furono appunto personaggi come Renato Marengo a fare questo indispensabile Trade Union, a Napoli particolarmente indispensabile. In questa piazza, che è piazza Prati Strozzi, c'era la Ricordi, la Ricordi ci invita all'ascolto di un disco straniero, dell'Arso, di una di queste etichette che distribuivano, internazionali. C'era l'abitudine, dopo si beveva, si brindava, si mangiava qualcosa, i discografici offrivano, diciamo, un piccolo cocktail al bar. Sapendo che avremmo fatto questa visione, che ci sarebbero stati 12, 13, forse 14 critici, poi gli unici italiani che si occupavano di rock, mi organizzo con Edoardo, che arriva con una sua scassatissima 600. Mi giocai l'ultima carta e mi piazzai in un posto strategico a Roma col tamburello a pedale, tipo One Man Band, tipo Pazzaglione. Ero disperato e quindi agida, disperato. La scena è questa. Noi stiamo tutti a mangiare questo panino seduti al bar, arriva un ragazzo riccioluto con gli occhialetti, sembrava un po' Bob Dylan, e senza scomporsi prende il suo tamburello a pedale, lo inchioda a terra. Questo doveva sostituire la batteria. C'ha la sua 12 corde col kazoo e l'armonica. La chitarra chiaramente sempre a portata di mano, perché era lo strumento principe. L'armonica, quindi nel solco di Bob Dylan e dei Padri Nobili della canzone autorale americana, e all'occorrenza c'era questo che si chiama kazoo. Non è un richiamo per le papere, ma è semplicemente uno strumento che dovrebbe sostituire il sassofono. Inizia a suonare. Qualcuno più snobbettino, infastidito, resta girato. Dopo il primo brano si affacciano tutte le persone della piazzetta e applaudono. I 14 si svegliano, si voltano, ma chi è, chi non è? E io dico, questo è Edoardo Bennato, il fratello di Eugenio, e è un artista rock straordinario. Tutti avete avuto il disco, forse lo avete io. Allora uno comincia a dire, ah sì, io l'ho visto ma non l'ho sentito. Cioè, stessa barca, salviamo il salvabile. E mi mandarono a un festival a Civitanova Marche, dove c'era l'intelligenza, la lobby politica e musicale. Quindi salì sul palco che era nessuno. Quando scesi dal palco, questa intelligenza aveva deciso che io potevo essere il rappresentante ideale dell'insoddisfazione giovanile in Italia. Uno stile nuovo, un linguaggio diretto ai giovani, molto popolare e molto, in qualche modo, all'avanguardia. Un linguaggio di un poeta moderno. Oh, qualcosa, oh. l'altra parte, quella della divulgazione dei grandi mezzi di comunicazione, perché la RAI era ascoltatissima, per voi giovani era dettava legge, la fa Raffaele Gascone. Raffaele Gascone ovviamente piace da impazzire Edoardo Bennato, ne fa un suo Bob Dylan e lo ha. Piace al punto che in un secondo LP di Edoardo Bennato, dove c'erano due carabinieri che sulla copertina, uno dei due carabinieri è Edoardo, l'altro è Raffaele Gascone. Così successe con la Ricordi. Io ero venuto a conoscenza che Edoardo Bennato stava facendo qualcosa di sperimentale, di folk rock. Dissi: datemi il disco di Bennato. Loro mi dissero: no, Bennato non funziona, l'abbiamo già provato in Rai, non ha proprio funzionato. Dissi: datemi Bennato, lo faccio funzionare. Allora dopo l'ultimo disco di Dylan, che questo è Dylan con George Jackson, e questo dall'entroterra napoletano, Campi Flegrei, Edoardo Bennato, Napoli se ne cadeva, tutto il sud se ne cadeva. Campi Flegrei, gente che va, tempo d'aprile, qualche anno fa, vecchio pianino suona per me quella canzone, Campi Flegrei. Io che venivo dall'Inghilterra e avevo visto come la musica era, insieme alle altre arti, come un territorio di comunicazione in cui il mondo giovanile cresceva e si manifestava, mi resi conto che bisognava rendere la musica non più l'oggetto del programma, ma un pretesto per la creazione di un territorio di comunicazione. Fece una trasmissione radiofonica, arrivarono un sacco di telefonate di ragazzi, ragazzini, che mi dissero: sai, noi ci siamo avvicinati a questo problema dei trasporti collettivi della metropolitana a Napoli attraverso il tuo disco, attraverso le tue canzoni. E dalle feste che organizzava c'era bel mondo dove lui suonava, io ce l'ho aperto senza protestare, se non aumentava le tasse da pagare. Meno male che adesso non c'è Neru. Prima di tutto individuai una serie di filoni contenutistici, no? Mi viene in mente il concetto di Shakespeare, secondo cui noi non siamo che l'ombra di qualcosa di più grande e che contiene tutto quello che noi potremmo essere. Ai signori mercanti d'arte venderò la mia pazzia, mi terranno un po' in disparte. Chi è normale non ha molta fantasia. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Parte un'altra grande stagione di grandi storie a Il Falco e il Gabbiano. Hanno tracciato una via nuova al rock e hanno scritto un inno che è entrato in tutti gli stadi, i White Stripes. La vita difficile di una grande donna, madre e moglie di campioni di Formula 1, Joanna Villeneuve. Un nobile dandy che ha vissuto con i grandi del rock, Stash. Un allenatore diverso dagli altri, lo chiamavano il filosofo, Manlio Scopigno e l'avventura del grande scudetto del Cagliari di Gigi Riva. La vertiginosa ascesa del cuoco più odiato dei talent, Gordon Ramsay. Vi aspetto tutti i giorni alle 15.30, Il Falco e il Gabbiano. Il segnale orario vi è offerto da... Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da... Il colesterolo in eccesso può causare problemi al cuore. Danacol, grazie agli steroli vegetali, lo riduce fino al 10% in 3 settimane. Mix 24. Storie di star. Bentornati a Mix 24. Nella Napoli degli anni 70 scoppia il fenomeno Edoardo Bennato, un successo che va oltre i confini della città e viene consacrato in tutta Italia. Bennato diventa una delle voci della contestazione giovanile. A parlarcene Raffaele Gascone e poi lo stesso Bennato. Un altro tema fu il tema portante della cultura del XX secolo, cioè l'idea della liberazione. Il primitivismo, esemplificato nella musica dal jazz e dalla musica popolare, i diritti civili, la cultura giovanile. Raffaele Gascone era qualche tacca più pazzo di me, cioè nel senso che lui aveva avuto l'articolo 28, io l'articolo 29, e quindi nessuno dei due riuscì a fare il militare. In effetti facemmo di tutto per non fare il militare. E quindi per me non c'era alcun problema di mettere Bob Dylan affiancato poi a Eugenio Bennato che cantava la tarantella del Gargano. E questi sono anche gli anni del successo di un altro gruppo, la Nuova Compagnia di Canto Popolare, che eseguiva musica popolare napoletana e siciliana. Ma fu l'incontro col musicologo Roberto De Simone a decidere la sorte del gruppo di musicisti. È la riscoperta delle antiche villanelle e delle tamurriate a catapultarli in un suggestivo mondo popolare. Così l'autore discografico Renato Marengo e poi Teresa Desio e Marcello Colasurdo. I discografici di allora, ricordi i Nemi, Buon Tibaldi, che era un giovane rampante discografico che ci teneva ai contatti, dice: questo è uno di quei dischi che io mi metto la frase era che io mi metto nella mia discoteca e che io e pochi altri ascolteremo. Io, senza controbattere, riesco a realizzare un live al Teatro Belli della Nuova Compagnia di Canto Popolare. Questo live, loro avevano previsto 1000 copie, arrivano 20.000, 30.000 ordini perché conteneva un brano che si chiama Tamurriata Nera. La stessa capacità di dire attraverso le parole altre rispetto alla cultura ufficiale, attraverso ritmi diversi da quelli più consolatori, no? Della musica leggera, della musica pop, questa stessa capacità ce l'aveva la musica popolare e ce l'aveva il rock. A noi non ci è bastato fare solo la tamuriata per la figliola che ti chiama Rosa, però cantare anche la socialità. Eravamo quelli là più, come dire, più provocatori, più politicizzati. In quel periodo Napoli, ma soprattutto la collina, era diventata una sorta di Covent Garden d'Italia, dove nelle strade si potevano incontrare file di capelloni, hippie, figli dei fiori, che passeggiavano per le strade, per i vicoli, per le piazze, armati, anzi accompagnati di chitarre, zaini e spartiti. I miei testi, per esempio, erano testi visionari, testi, le letture di allora, parlo quindi all'inizio degli anni 70, erano Baudelaire, Verlaine, poi c'erano appunto i Doors, Jim Morrison. C'è anche un progno strano che vede tra le massime espressioni artistiche innanzitutto il progetto degli Osanna, di Rino Valetti, Danilo Rustici, Elio Danna, Elio Brande e Guarino, con L'Uomo e Palepoli, due concept album proprio incentrati sulla storia di Napoli, e un altro concept album del 1972, sempre di un giovanissimo Alan Sorrenti. Questa è una vecchia canzone napoletana del 1930. Davamo una mano perché era difficilissimo, faceva avanguardia, non lo capivano, faceva di Cito in cielo bui, pensavano che fosse un'altra volta melodico, invece quello che ha fatto Alan Sorrenti di Cito in cielo bui l'avrebbe potuto fare solo Tim Barker. Alan Sorrenti pubblica nel 1972 per la Airways un'etichetta nata per il prog, appositamente per il prog, una pietra miliare del progressive mediterraneo che è Aria. Fece due degli album più straordinari realizzati in Italia negli anni 70, con alcuni dei musicisti più prestigiosi che in quel momento viaggiavano nel mondo. Nel 1975 esce il primo LP da solista di un altro grande cantante napoletano. Con l'etichetta discografica numero 1, Tony Esposito incide Rosso Napoletano, un disco dall'enorme successo. A parlarcene lo stesso autore e poi Gino Castaldo e Renato Marengo. Rosso Napoletano è nato perché io abitavo con i miei genitori a Via Manzoni, ovvero Posillipo, Napoli Alta, dove si vedeva la fabbrica dell'Italsider. La fabbrica dell'Italsider, nel momento in cui era in piena attività, tramutava il paesaggio con tutti i suoi, con tutto il suo fuoco, tutte le cose, in un paesaggio rosso. Molto sperimentale, quindi, però insomma anche questo proiettava la cultura napoletana molto molto avanti. Anche lì, ma come un batterista che fa un disco? È un percussionista. Vendette quasi 100.000 copie, quando i cantautori ne vendevano 30.000, quelli di successo. Nel 1975 è la volta dei Napoli Centrale, complesso fondato da James Senese e Franco Del Prete. Jazz, rock e fusion si mescolano alle sonorità napoletane. Sentiamo il semiologo Francesco Linguiti e poi Raiz, James Senese e Raffaele Cascone, che ha contribuito alla scoperta e poi al posizionamento nel mercato discografico dei Napoli Centrale. È da questo complesso che parte la carriera anche di un giovanissimo Pino Daniele. Per la prima volta mi misero in mano un disco dei Napoli Centrale. Fu la scoperta del fatto che quelle sonorità rock, jazz e fusion erano le mie sonorità di napoletano. Perché noi dobbiamo cantare la musica dei cafoni degli americani? Perché un nero di New Orleans non è meno cafone di un contadino di Giuliano. Allora dico, io poi canto la musica dei cafoni di New Orleans e non posso metterla vicino, che ne so, alla musica dei cafoni dell'Interland napoletano. In questo, per esempio, un pezzo meraviglioso è Campagna di Napoli Centrale, cioè che è proprio quella cosa lì. Raffaele è quello che ci ha scoperto. James, tu non devi, è inutile parlare di cose che sono lontane dalla tua realtà, parla di quella che è la tua realtà quotidiana. E da qui è entrato il nostro sociale per la nostra città, noi, capito? Che cosa vogliamo fare? Che cosa vogliamo dire? Da qui è nata Napoli Centrale. La stessa copertina del disco facciamola fare da un fotografo che a Milano documenta la cronaca quotidiana, le manifestazioni, gli scontri, gli scioperi. In tutte le feste di piazza ci chiamavano perché noi ci chiamavamo Napoli Centrale, pensando che noi facessimo tradizione, capito? Invece quando all'improvviso ascoltavano questo terremoto, la gente rimaneva scioccata. Questo tipo di nuovo fermento musicale in realtà era, diciamo, nella città, viveva attraverso gruppi, attraverso cantine. Nel caso specifico di Pino Daniele viveva in una grotta, sembra strano, cioè questo movimento è nato in una grotta che apparteneva al cantante del gruppo in cui militava Pino Daniele, l'Abbatro Comiomachia. Un giorno incontro Pino Daniele, lo incontro a Via Roma. Lo incontro a Via Roma e dico: ah Pino, come vanno, come va il gruppo, tutto quanto? E lui dice: guarda, io ho fatto dei provini. Io vengo a sti palazzo scura. Si raccontava una città qualche volta degradata, qualche volta anche poco piacevole, poco turistica. Napoli era carta sporca. Poi venne a casa mia sto ragazzino in pantaloni corti con questa vocetta, sta chitarra, scoprì subito che era un genio, ne parlai agli altri cinque che producevo, che era diventata una famiglia, e ricordo che qualcuno disse: ma mo ognuno che ha una chitarra e canta il napoletano vuol fare un disco. Allora fui quasi bloccato. Nonostante questo riuscii a telefonare all'EMI, a degli amici, e fissai un appuntamento Claudio Poggi con Pino Daniele. Prendiamo il nostro treno Napoli-Roma, prendiamo la metropolitana, arriviamo all'Euro, perché all'epoca l'EMI stava all'Euro, andiamo da Bruno Tibaldi. Insomma, adesso è inutile che stiamo a favoleggiare, in men che non si dica, iniziamo a lavorare al primo album di Pino Daniele. Ha solo 22 anni, Pino Daniele, quando pubblica un manifesto di quello che è la musica cantautorale in Italia e partenopea. Sto parlando di Terra Mia. Quello di Pino Daniele è un nuovo modo di comporre testi e di cantarli. Si distacca dalla tradizione per dare voce al linguaggio popolare dei quartieri emarginati di Napoli. E il Napoli's Power sfonda nei canali di musica alternativa. Sono gli anni dei cantautori, dei gruppi di rock che si impongono alla canzone di intrattenimento, alla canzonetta borghese dei buoni sentimenti. La musica diventa il ponte verso una nuova terra promessa, mentre si attendono i grandi cambiamenti politici. Sentiamo ancora Renato Marengo e Edoardo Bennato. Erano periodi di contestazione e Edoardo Bennato con i suoi testi, anche se involontariamente, perché Edoardo Bennato è uno spontaneo, non legato, ma non è mai stato legato o collegato a gruppi politici, però inevitabilmente le sue canzoni, che erano di protesta giovanile contro tutto quello che di vecchio e di antico e di diciamo cambiabile esisteva, le canzoni di Eduardo Benato vengono identificate con canzoni di protesta. E quindi cominciai a fare i festival dell'unità, di lotta continua, di avanguardia operaia, però chiarii subito che l'unica bandiera che intendevo sventolare era quella del rock, per cui facevo dei pezzi molto dissacranti, per ridicolizzare anche quelli che cercavano di prendere il potere. Per molti di noi la musica è sempre stato un fenomeno di grande capacità sociologica, di grande capacità di unificazione di tutti i pensieri giovanili. Per altri invece è stato un momento non soltanto sociale ma anche politico. E allora lì le cose si sono un po' complicate, anche un po' diciamo, sono diventate becere, qualche volta anche qualunquiste. Il paradosso è che il nemico giurato è il consumo, cioè i cosiddetti i bisogni indotti, no? quelli che per Marcuse determinavano l'uomo a una dimensione, però allo stesso tempo la musica è consumo. Allora è un consumo di massa che ha come ideale quello del superamento della società dei consumi di massa. Una sera sì e una sera no, oltre a suonare bisognava fare ammazzate. Ma sono il comandante. Senza ragione si saliva sul palco, si fermava un concerto e venivamo contestati. È il 1977, la violenza sale sul palco. I concerti di Carlos Santana, degli Zeppelin, di Lou Reed sono presi d'assalto. È l'anno della violenza diffusa. Anche il rock e i cantanti alternativi ne vengono travolti, accusati dagli estremisti di essere parte del sistema repressivo borghese. La musica, la più grande forza creativa degli anni 70, viene fatta tacere. Cantautori come Venditti e De Gregori sono processati sui palchi e decidono di non esibirsi più. È cominciato il periodo più buio. Per almeno un paio di anni non ci furono più concerti negli stadi. Finché nel 78 ci venne l'idea di fare il concerto al San Paolo. Però chiaramente avevamo pochi mezzi. Un impianto mediocre, insomma. Ci arrangiamo, però andò bene lo stesso. Chiaramente qualcuno scrisse: Bennato riapre gli stadi alla musica. Quanta fretta, ma dove corre, dove vai? Edoardo Bennato nel 1977 col suo quinto lavoro discografico Burattini senza fili raggiunge alcuni primati in Italia. Innanzitutto il primo disco di un cantautore a vendere 1 milione di copie. È il primo disco di Edoardo ad entrare in classifica, nelle classifiche alte, numero uno, e soprattutto è il primo disco di un artista italiano da cui vengono tratti ben 4 videoclip. Faceva dei grandi riferimenti proprio al rapporto fra artista e industria, quindi fra creatività e credibilità industriale, quindi un tema, per carità, ancora oggi molto valido. Numero 4, altra nuova entrata per Edoardo Bennato. È il 1980. Edoardo Bennato è il primo cantante a riempire lo stadio San Siro di Milano ed è in testa alle classifiche con ben 2 LP. Ma è un momento importante anche per la carriera di un altro Bennato, Eugenio. Eugenio con Musica Nuova fa un passo in avanti, un passo che ha ancora continuato adesso col Taranta Power. È un passo straordinario dove si cerca di andare a riscoprire le proprie radici, però non si nega alle culture affini di poter partecipare. E questo è, diciamo, il miracolo e l'intuizione geniale di Eugenio Bennato. Aprì e vidi una cassetta di arance che veniva, diciamo, spostata dalle spalle del portatore a terra. E in siciliano dice: queste soppettie. Era Alfio Antico, che si era presentato con un tamburello e una cassetta di arance, con la, diciamo, determinazione di suonare con me. Il giorno dopo eravamo già sul palcoscenico del Teatro San Ferdinando insieme. 1979, con il brano Tu sei l'unica donna per me, Alan Sorrenti vince il Festival Bar, la più grande manifestazione musicale dopo Sanremo. Grazie alle vendite dei suoi dischi nasce la prima pop star internazionale italiana. Quando la EMI dell'epoca, quindi una grossa multinazionale, non quelle che viviamo e vediamo oggi, riuscì a mandare Pino Daniele con Che calore al Festival Bar di Verona fu un avvenimento. L'anno dopo, Pino Daniele è ancora al Festival Bar con Io so pazzo, una vera e propria hit. Sentiamo il critico Carmine Aimone, il produttore discografico Stefano Senardi e poi Pat Metini. Nel 1980 il Pino diventerà il bluesman partenopeo, il bluesman metropolitano. In maniera naturale, cosciente o non cosciente, nasce già con la musica americana dentro il suo tipo di scrittura. Vivo vero, toccando quello che non ho. Pino era interessato a certe armonie e a un certo linguaggio musicale che vanno ben al di là di quella che noi chiamiamo musica pop. Ed è questo che lo rende anche popolare, il disco della svolta, il disco che supera il Garigliano, va oltre, supera i confini del Lazio, arriva in tutta Italia. Buonasera a tutti, anche a nome di Tullio D'Episcopo, Tony Esposito, Rino Zurzolo, alla tastiera c'è Gio Amoruso, usa sofono James Senesi, suona anche il lirico e io suono la chitarra e canto in napoletano, quindi se qualche cosa non la capite non fa niente, l'importante è il sentimento. Quinta posizione, ancora in salita e Pino Daniele con Vai Mo. Settembre 1981, anno del dopo terremoto, a Piazza del Plebiscito, luogo simbolo di Napoli, si tiene il concerto evento di inizio decennio. La sensazione di vedere davanti a te 200.000 persone, perché allora erano 200.000 persone, è stata una cosa memorabile. Siamo trovati con questa, che era scoppiato il terremoto. Andare in giro, sei napoletani, dopo tutto quello che era successo qui, è stata una forza per le persone che terremotate. Noi volevamo una città viva, viva di fermenti musicali, culturali, teatrali, di tutto e di più. E devo dire che ci sono stati all'epoca, non è un caso che per esempio poi noi incontrammo in una manifestazione assurda a Monte Carlo la Smorfia e da lì nacque questa grande amicizia con Troisi, Lello Arena, Enzo De Caro, con cui poi Pino ha collaborato eccetera per le musiche e tant'altro. Noi facevamo i raffronti, Eugenio era uno che era stato anche in Sud America, Eugenio Bennato, diciamo, cuciva un po' le relazioni e le cose e parlava anche lui di movimento simile a quello brasiliano. È proprio perché io sono arrivato e ho cominciato a fare musica alla fine degli anni 70, quando c'era un fermento e un movimento, quando la musica era un movimento all'interno di un flusso all'interno del quale ogni singola personalità poteva fiorire e poteva rafforzarsi. E credo moltissimo che i musicisti isolati, da soli, ognuno chiuso a casa sua a scrivere la propria musica, sì, possono anche fare cose molto belle e pregevoli, ma che difficilmente riescono a spostare le cose con la forza con cui sono state spostate in quel periodo. Abbiamo sentito la voce di Teresa Di Sio, ma questi sono anche gli anni di Enzo Gragnanello. Nel 77 forma il gruppo musicale Banchi Nuovi, legato ai disoccupati organizzati. Musica impegnata, ma anche riscoperta delle radici popolari e della canzone napoletana. Venne da me un produttore chiamato Claudio Poggi, che era lo stesso produttore di Pino Daniele. Ascoltai questa cassettina realizzata, una voce, una chitarra, quindi molto molto semplicemente, cioè lontano, anni luce dai provini. Non parliamo dei provini di oggi che sono quasi dei dischi, ma anche di provini dell'epoca erano realizzati bene. Mi sembrava un po' come faceva una brutta figura con la realtà che io vivevo. E lo chiamai immediatamente, dissi: Enzo, io ho voglia di lavorare con te. Delle persone esterne mi hanno in un certo senso convinto che potevo fare qualcosa di più. Potevo, anziché di protestare solo, potevo anche cantare per un pubblico più, più vasto. La musica ha salvato un sacco di persone a Napoli. Perché? Perché la musica ha dato un senso alla loro vita, una spinta di crescita, di rivincita, sia nei confronti personali delle persone che appunto intraprendevano questa carriera, sia da parte della città tutta. È il boom commerciale, i frutti del Naples Power. Milioni di dischi venduti, mentre il sound napoletano scala le hit parade anche fuori dall'Italia. Il terremoto dell'80 fa piovere su quella città miliardi a pioggia, e questi miliardi vengono accaparrati da bande armate. C'è una potente lotta di fazioni camorriste, allora ce n'erano solo due. Oggi si immagina che ce ne sono circa un centinaio di famiglie camorriste che si amministrano il territorio. Ma allora ce n'erano solo due grandi fazioni che hanno insanguinato quella città con centinaia di omicidi, circa 300-400 all'anno, per diversi anni. Dunque, in quel momento Napoli ha un'accelerazione economica, una strana accelerazione economica, fondata su questo arrembaggio del denaro pubblico spartito in questo modo. Quando penso ai musicisti napoletani, una cosa che per me li rende unici è il fatto di mettere in ballo qualcosa che gli appartiene. È una componente in più e si sente molto. Puoi capire qualcosa della vita di chi sta suonando attraverso i suoni che produce. Ogni volta che sento in un musicista che c'è una storia da raccontare, la sua storia, io ne sono attratto. Sicuramente Naples Power per noi a 67 rappresenta fonte di ispirazione. Il Naples Power è ormai nella città. È una vera e propria scuola, un punto di riferimento indispensabile per chiunque voglia raccontare in musica la propria storia e provare un giorno a rimetterla in gioco. Ci siamo sempre posti, era come obiettivo, che per esempio un ragazzo di periferia, anche per un solo attimo, riesca a riflettere su una tematica a noi cara, come ad esempio l'alienazione, il vivere alla periferia, il degrado della periferia, oppure uno dei tanti temi. Se solo per un attimo un ragazzo che viene da queste zone, ma non solo italiane, non solo napoletane, riuscisse a riflettere grazie ad una canzone nostra, per noi sarebbe un massimo.